tu giustamente hai detto, abbiamo visto tutti gli errori che ha fatto il PD, perché anche un bambino poteva capire, e figuriamoci scafati dirigenti, che in questa situazione andare da soli contro gente coalizzata era già suicidio. Ma in pochi si sono chiesti perché è stato fatto, e non solo da Letta, perché se ricordi bene, nessuno nel PD, quando c'è stato il defenestramento, direi la fatua, no, contro Conte, il draghicida, ha detto nulla. È questo l'elemento che dovremmo capire prima ancora di capire chi prenderà a mano il sinistrato PD in questo momento, perché non è più solo una questione di segretario, di mera linea politica, ma proprio di esistenza stessa. Cioè, che tipo di sentiment ha il PD nel paese? Nessuno, nessuno. Cioè, brandire l'agenda Draghi e fare riferimento allo scenario internazionale significa fare altri interessi rispetto a quelli di un popolo, no, nella sua variegata fisionomia, che comunque non ha quel sentimento, giusto o sbagliato che sia, però è così. Quindi il problema del PD adesso è molto più grosso rispetto all'idea di cambiare un segretario per una normale sconfitta elettorale, perché è proprio l'esistenza stessa, la composizione ideale e politica dello stesso Partito Democratico che a questo punto viene messa in discussione. Poi noi ovviamente come giornalisti spesso speculiamo anche sui nomi. In questi mesi, insomma, e anche in queste settimane, anche in queste ultime ore, si sono fatti due nomi che sono forse abbastanza antitetici, sono Bonaccini e Schlein. Se la guida andasse in mano a uno di questi due, avrebbe una direzione diversa il partito. È chiaro che le personalità incidono sempre, però non dimentichiamoci una cosa, Bonaccini e Schlein vanno a braccetto nella regione Emilia-Romagna da diversi anni. Mi pare che Bonaccini all'indomani della caduta di Draghi abbia detto cose abbastanza singolari, no? Tipo andiamo a prenderci i voti dei 5 Stelle, salvo poi nell'ultima fase, no? Proprio pochi giorni fa, fare invece delle aperture, forse avevano usato un po' il taglione. Ma al tempo stesso ricordo che Bonaccini è stato contestato pesantemente dai suoi stessi elettori anche recentemente in un incontro pubblico. Elly Schlein si è costruita un'immagine, no, di icona della sinistra, ma poi, cioè, tutte queste cose non basta il marketing, bisogna poi riempirle di fatti, di politiche. Quindi la scelta, come ti dico, non è semplicemente Schlein con la sua personalità, la sua storia politica, e Bonaccini con la sua personalità e storia politica, ma quali contenuti realmente interpretano? Proprio ieri nel suo discorso questa notte, insomma, di Giuseppe Conte, alla domanda specifica di un possibile ritorno di alleanza con il PD, ha detto: se il PD vuole seguirci sui nostri temi all'opposizione, quindi... È esattamente quello il punto, cioè Conte può piacere o non piacere, non ci mancherebbe altro, però comunque esattamente come altri partiti, la stessa Meloni assolutamente, cioè ha una coerenza politica nel suo ragionamento, ha mantenuto una coerenza politica non in tutto il suo percorso, ma sicuramente nel percorso che poi l'ha fatto decollare come leader, cioè il Conte 2, la gestione della pandemia in poi, fino a stringere un'alleanza col PD che nei territori, pensiamo a Bologna, pensiamo che quando rompe Letta con Conte sono state appena fatte le primarie in Sicilia tra il PD e 5 Stelle, cioè siamo all'allucinazione. Ma è questa comunque la cosa fondamentale, cioè che cosa è il PD? Perché se non hai definito che cosa sei, guidare una cosa che non sai che cos'è, no, che la dai in mano a un pilota oppure all'altro, cambieranno delle sfumature, ma non cambia il problema. Ecco, io credo che il problema del PD in questo momento, molto più che il segretario, anche se è un tema ovviamente cogente, sia la definizione di che cosa è. Questo è il punto. Certo. Dopodiché, in base a quello che sei, allora dovresti scegliere chiaramente la personalità che più interpreta e questa tua esistenza politica, che motiva la tua esistenza politica. Io non credo che nell'attuale dirigenza del PD ci sia ancora questa consapevolezza, e non voglio fare nomi, non dico non c'è in Bonaccini e c'è in Schlein o viceversa, ma questa consapevolezza deve essere maturata, digerita, dopodiché si parlerà di nomi. Se invece diventa la solita battaglia fra capi corrente per avere una posizione, no, tattica di un tipo piuttosto che tattica di un altro, non si risolverà il problema del PD, è evidente.